in primo piano. In questo mercoledì 30 marzo, effettivamente per l'ennesimo giorno, la situazione lampedusana e italiana, l'immigrazione prende le prime pagine dei giornali, una rapida carrellata dei titoli, 1000 rimpatri verso la Tunisia, così titola il Corriere della Sera. Per Repubblica, caos profughi, piano antisbarchi. Per Libero, la grana degli immigrati, colpa di Prodi e Napolitano. La Stampa invece più sul respiro libico, l'ONU, Gheddafi in esilio. Poi molti giornali si esercitano sul Fera di Baal pronunciato da Bossi, è il titolo del giornale, la ricetta di Bossi, fuori dalle balle. Il Fatto Quotidiano, profughi senza cibo, Bossi, fuori dalle balle. Per Il Manifesto c'è una foto di questi migranti col titolo I rompiballe. Era immaginabile, no, che quella sparata di Bossi. L'Unità, fuori dai ball. Però la foto è quella che ritrae Bossi e Berlusconi, dunque l'invito per l'Unità è a loro. Per Il Riformista, foglio di via, ma in questo caso al ministro Maroni, dovrebbe dimettersi per il caos di Lampedusa. Il Messaggero, a Lampedusa manca il cibo, per Avvenire, fame a Lampedusa. L'apertura del Sole 24 Ore invece è dedicata strettamente all'attualità finanziaria, titoli giù in borsa, il martedì nero delle banche, Standard & Poor's declassa Grecia e Portogallo, Lisbona deve ricorrere al fondo salva stati. Allora, da cosa voglio partire come segnalazioni? La prima è dal Corriere della Sera, pagina 26, riguarda il Papa. La voce del pontefice è protetta dal copyright. È una notizia che ho trovato solo sul Corriere. Ne parla Gianguido Vecchi. Ieri è entrato in vigore una nuova legge del Vaticano, della Commissione per la Città del Vaticano, l'organo che detiene il potere legislativo nello Stato. Un testo che tutelerà il Papa, come i predecessori, per quel che riguarda il copyright, per esempio, sulla voce. Una legge innovativa, ne parla anche il Corriere, interpella Giorgio Assumma, già presidente della SIAE, docente di diritto dell'editoria a Roma 3, che dice c'è qualcosa di innovativo, per esempio, sulla voce. C'è una legge che tutelerà le registrazioni. Se in un paese come in Italia, per esempio, si può usare la pubblicità, in pubblicità voci come quelle di attori famosi, magari scomparsi come Totò, senza l'autorizzazione degli eredi, è difficile invece ed è impossibile che questo succeda per il Papa. Viene fatto per impedire che persone utilizzino, lucrando, la voce del Papa come testimonial. Oppure questa legge tutela anche i testi, le immagini del Papa, non perché si voglia fare una censura di alcunché, ma per evitare, per esempio, che qualcuno pubblichi un testo del Vaticano con degli errori. Con questa legge la Santa Sede avrà il diritto di chiedere a un editore di correggere o rimuovere documenti del Magistero che siano stati pubblicati a scopo commerciale oppure con errori o modifiche del testo. La voce del pontefice è protetta dal copyright, così titola il Corriere della Sera per questa nuova legge vaticana sul copyright entrata in vigore ieri. La seconda segnalazione la trovo dal Quotidiano Nazionale, in realtà è una vicenda successa ieri per la seconda volta, sulle note dell'inno d'Italia che riecheggiavano prima del Consiglio regionale della Lombardia. I consiglieri regionali del Carroccio della Lega se ne sono andati al bar. L'inno della discordia, il Carroccio evita Mameli, tra questi anche il consigliere regionale Renzo Bossi, il Trota, il figlio di Umberto Bossi. Ed ecco allora la proposta del PD: chiudete il bar, almeno durante l'inno nazionale. Per la seconda volta, racconta il Quotidiano Nazionale, appunto gli esponenti del Carroccio sono usciti, gli unici che sono rimasti il presidente del Consiglio Davide Boni per dovere istituzionale e un consigliere Gian Giacomo Longoni che con ostentata indifferenza, racconta il Quotidiano, ha letto il giornale mentre gli altri consiglieri ascoltavano in piedi l'inno. E allora il PD ha detto: vogliono andare a bere il cappuccio durante le note dell'inno di Mameli? Beh, chiudiamo il bar della regione, almeno vadano a fare colazione fuori in via Filzi. In via Filzi è una via centrale di Milano vicina alla sede della regione. Non ha senso che il bar continui a sfornare brioche mentre c'è l'inno di Mameli. consiglieri regionali della Lombardia.